sposo. Oh, dei, io più non li rivedrò. Già d'ogni intorno mi si affollano orrori. Udir già parli il fiero suon dell'armi. Mi rollire le stragi e mi rodio. Tutto piaghe languir l'amato bene. Teuzzon fermo.